Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E poi a un certo punto, in fondo al corridoio, apparve. Ta-ta! Cazzo, ma quello è Velasco! Si fa un culo così adesso! E invece Julio era il più ubriaco di tutti. Ma è uno dei più bravi sicuramente. Quasi salgo su un pullman che non era quello nostro con mia figlia che mi guardava strano perché non aveva mai visto ubriaco. Paolino fa quello che vuole. E la palleggia in quattro. E Lollo Bernardi poi salta più in alto possibile. E la schianta fortissimo sulle mani del muro cubano. E la palla finisce nelle mani dei tifosi italiani in tribuna! Campioni del mondo! Buongiorno a tutti. Oggi qualcosa che non siete abituati ad ascoltare in questo spazio, perché faremo della alta cultura. E avrete sentito l'incipit del programma. Non c'è per Luigi Pardo, se non potevamo farla. C'è invece un nostro amico di vecchissima data, Andrea Zorzi, che è qui con me. Ciao Andrea. Mi mancavate, ben ritrovati. Anche ciao, tu Carlo. non sai quanto, adesso mi tocca a Pardo, figurati un po' come sto messo. Ma stiamo per parlare della nuova vita di Andrea Zorzi, ma lo saprete già in molti. Andrea Zorzi, attore, con la leggenda del pallavolista volante. Abbiamo sentito un breve estratto, io volevo sentirne molto di più, lui non ha voluto. Allora adesso ci racconti questa opera teatrale, perché di opera teatrale si tratta, e poi mi parli anche di un commento che mi ha profondamente inquietato, cioè quello di una recensione tra le mille entusiastiche apparsa sull'Unione Sarda, dove c'è Nando Muro, un giornalista che ha posto un dubbio che sinceramente mi ha... Provocazione. Sliding doors, e se Andrea Zorzi nella vita avesse sbagliato tutto... E magari non avremmo avuto uno dei più forti giocatori della nostra storia sportiva, non solo a pallavolo, ma potevamo avere un attore da Hollywood. Beh, un passo per volta. Vabbè. Noi non ci vediamo da un po' di tempo, sì. E intanto sono felice di essere qua nuovamente, sento Radio 24 sempre come un po' casa mia. In questi anni è accaduto che casualmente si è aperta un'altra porta, una di quelle totalmente inaspettate, una sliding door, insieme con due cari amici, Nicola Zavagli, che è autore e regista teatrale, Beatrice Visibelli, che è invece sul palco insieme con me, abbiamo fatto questa teatro di narrazione, la leggenda del pallavolista volante, della mia storia, però con una pennellata importante anche d'Italia anni 70, del Veneto in cui sono nato, delle vacanze fatte in macchina con il tavolino per il picnic, dei miei genitori, mio padre emigrato in Australia, mia madre che lavorava in un manicomio. E quindi dove nasce questa mia avventura? L'incontro con la pallavolo casuale. I professori del liceo classico dissero: ma sto ragazzotto qua che sembra un po' demotivato, ma è così alto, ma fategli fare sport. Ricordate bene, professori sì. Del liceo classico che invitano i miei genitori a farmi giocare non a pallavolo, a fare sport. Io scelgo la pallavolo perché era più vicina a casa mia, e con 49 di piede non si può giocare a calcio. Quindi anche lì un incontro casuale. E è accaduto che questo, che poteva essere una specie di scherzo, è diventato invece uno spettacolo teatrale, con quello stiamo girando l'Italia. Mi dà una soddisfazione unica, perché mi permette di raccontare con un ruolo diverso un pezzo importante della mia vita, di quando ero ragazzino, ma soprattutto di quando ero con i miei grandi questa, amici. Questa, ricordiamolo, è la tua storia, cioè non è fiction, è la tua storia trasposta a teatro. È la mia storia, senza filtri, senza bugie, con un sacco di cose che fa rabbrividire, perché racconto naturalmente un sacco di stupidate che ho fatto in vita mia, racconto di quanto fossi scarso, ma veramente scarso, e di quanto fossero bravi gli allenatori che hanno visto qualcosa in me che poi mi ha permesso di diventare un buon pallavolista. Racconto delle mie difficoltà da adolescente, da adulto, della separazione, del ricongiungimento, quindi è davvero una chiacchierata in cui si ride molto, si piange un pochino, io piango sempre, scoprendo, e questa è una sorpresa, che a teatro il dramma, la pesantezza delle sconfitte sono teatralmente molto più efficaci di quanto non sia la leggerezza e la gioia della vittoria. Sì, allora, adesso ti abbiamo acchiappato al volo, perché mercoledì sarai a Milano al sì. Teatro dell'Elfo con questa data unica dello spettacolo, almeno per il momento, perché immagino che poi tornerai qui per l'Europa, e poi nel frattempo giri l'Italia in continuazione, oltre che essere la domenica Skype, perché ti vediamo e quindi non puoi imbrogliare, ma senti, ma diventare attore com'è? Non te lo so dire, è un'esperienza strana. Io ricordo di aver avuto molta paura quando Nicola Zavagli mi ha letto il copione, che naturalmente riconoscevo, ma con un linguaggio teatrale. E quindi non è la prosa, non è un libro, è un copione che deve diventare un dialogo tra attori, un dialogo legato a dei movimenti sul palcoscenico. Il primo giorno mi dissero: iniziamo, impara a memoria il copione e quando fai questa battuta inizia a muoverti. Io dissi: mamma mia, mi devo ricordare le battute, ricordare dove devo andare, troppo complicato. Scoprendo poi invece che movimento e parole si uniscono e non è una doppia memoria, ma è una memoria singola. A volte le parole ti fanno venire in mente il movimento, a volte i movimenti ti aiutano con la memoria. Un'esperienza unica, perché sempre di tavole di legno si tratta, come nella pallavolo. Certo che l'attenzione e la tensione del teatro è comunque molto speciale. Non riuscirei a fare simile a una grande partita o qualcosa, immagino qualcosa di differente. L'unica analogia stretta è la totale concentrazione, la totale focalizzazione. Nello sport si dice sempre: qualunque sport, non pensare all'ultimo punto e non pensare al prossimo punto. A teatro non pensare alla prossima battuta, se no perdi quello che stai facendo. È incredibile. Nel teatro ancora più forte, se per un solo istante, fosse anche per paura, tu pensi alla prossima battuta, l'intensità e la verità di ciò che stai dicendo perde immediatamente di efficacia. E questa cosa la si nota, perché davvero c'è qualcosa di molto magico che non sempre si riesce a realizzare, però quando sei lì e quando stai raccontando una storia, ma anche a te, quando crei quel dialogo con, in caso con Beatrice Visibelli in questo caso, è davvero qualcosa che rinasce e qualche volta senti che non sei totalmente presente. Ecco, nello sport lo si vede qualche volta perché non sei concentrato. Nel teatro forse è ancora più fine questa attenzione, perché basta uno sguardo degli occhi che va per terra e la gente se ne accorge. Beh, però hai scoperto di comunque, al di là delle sliding doors a cui si faceva riferimento, di avere questo altro talento. Il che non è comune, dai, adesso non banalizziamo, cioè non è una cosa semplice, Andrea, non è che possiamo andare lì e avere la capacità di farlo tutti quanti. Guarda, con te ne abbiamo parlato molte volte in tanti anni. Una delle gioie più grandi della mia vita è aver avuto la possibilità di stare in tanti ambienti diversi. E non c'è dubbio che io ho cercato di fare del mio meglio per stare a mio agio e imparare da molti ambienti. In radio, in televisione, quando facevo il tecnico delle luci con Cataclò, quando facevo il pallavolista, il giornalista, quindi una grande curiosità. Però ti assicuro che hai messo il pallavolista al quinto posto, ti rendi conto? il senso però di libertà, di tanta aria fresca, di spazio incontaminato è una risorsa straordinaria. Io sono veramente felicissimo di questo. Mi piace viaggiare, mi piace andare in giro per l'Italia, mi piaceva farlo con il bus, con la squadra, mi piaceva farlo da solo per andare a fare i commenti, mi piace farlo adesso per andare a fare le repliche in teatri grandi e teatri piccoli. E sono molto fortunato e molto felice. Quando giocavi ovviamente la soddisfazione era la vittoria, era il dare la soddisfazione al pubblico. Adesso cosa dai al pubblico? Cioè, cos'è che riesci a trasmettere? Qual è la tua grande emozione adesso in questo lavoro? Si entra, anche noi attori entriamo in questa storia. Parlavo di magia del teatro. C'è un momento dopo l'imbarazzo iniziale del pubblico, che spesso da sportivo dice: ma chissà cosa ci fa Zorro a teatro. L'imbarazzo del pubblico teatrale, che dice: ma chissà cosa ci fa uno sportivo sul palcoscenico. Dopo qualche imbarazzo iniziale, loro, ma anche noi, entriamo in questa storia che parte dall'Australia, passa per l'Italia, va in giro per il mondo, Svezia, Brasile, Giappone e quant'altro, ed è un viaggio che facciamo insieme. E alla fine la sensazione è che siamo stati per 80 minuti tutti insieme a raccontarci una bella storia. E molta gente che alla fine viene a salutarmi, cose che io faccio con moltissimo piacere, la sensazione è quella di avere rivissuto alcune azioni della pallavolo, avere vissuto alcune emozioni. Questo è fortissimo. Non c'è l'ultima palla che dà la vittoria o la sconfitta. In questo senso lo sport è imparagonabile. Non esiste nessun'altra attività umana che abbia un segnale inequivocabile di vittoria e di sconfitta. Teatro non si vince e non si perde. Può andare bene, benino, male. Beh, però è qualcosa di tra molte virgolette di agonistico anche quello, Andrea. A me piace. Cerco anche, ripeto, ormai da atleta, ex atleta molto anziano, di uscire un po' da questa dicotomia vittoria-sconfitta, come se il mondo fosse una partita. Mi piace molto sforzarmi per fare del mio meglio, ma non sempre sei in un contesto nel quale c'è la vittoria e la sconfitta. Quindi fare il tuo meglio, cercare di sfruttare ogni occasione è una grande opportunità. A teatro questo è molto interessante. Sì, poi mi è piaciuta la definizione, chiacchierando in questi giorni, la definizione che dai, comunque la prima definizione che dai di questo lavoro, di questo lavoro teatrale, è teatro popolare. Sì, anche questa è un'altra chiave importante. Io sto collaborando con due amici che conoscevo da un sacco di tempo, sì. E solo casualmente qualche anno fa abbiamo fatto questa specie di follia. Però loro chiaramente dicono: noi vorremmo fare un teatro popolare nel senso buono del termine, cioè senza troppi psicologizzazione, sì. Non siamo lì a fare psicoterapia. E quindi qua si ride, qualche volta si piange, con la semplicità, con alcune frasi anche molto molto semplici, però che torna ad essere un po' il nostro teatro, quello che abbiamo amato tantissimo e che a me piace molto. Poi di che adrenalina sudo, anche questa, no? Poi sudo molto. Perché ovviamente parlando di sport ci sono gli allenamenti durissimi con Belasco, i 5 sì. punti consecutivi da portare a termine, le docce con i grandi imbarazzi quando ero ragazzino, e poi si corre, si fatica, e alla fine anche un po' uno sforzo fisico che secondo me si sposa perfettamente con l'oggetto dello spettacolo teatrale. Vedete, Andrea Zorzi, oggi a tutti convocati in questa puntata specialissima in cui insomma poi ci accusate di non fare cultura, stiamo facendo dell'alta cultura e poi anche dell'alta letteratura, ma invece non hai mai il dubbio, il sospetto che la gente viene a teatro e dice: ma vado per vedere Andrea Zorzi sul palcoscenico in carne e ossa, no? Magari non l'ho visto giocare o l'ho visto solo in televisione, lo vedo solo in televisione, vado per la curiosità di vedere lui. Sì, penso che qualcuno venga anche una componente per... di questo tipo c'è, magari poi dissipata istantaneamente, però può venire, no, questo sospetto. Tieni conto che dunque la nostra generazione di fenomeni ormai ha un'età tale in cui solo chi ha più di 30 anni ci ha visto giocare, sì. Quelli più giovani hanno sentito indirettamente parlare di noi. E quindi c'è qualcuno forse che coglie l'occasione per vedere come siamo invecchiati, per esempio. Io ricordo perfettamente che in due occasioni a Modena e a Piacenza in platea c'erano Lucchetta, Cantagalli, Gardini, Velasco, Gianni, Masciarelli, ed era molto emozionante. Ricordami di chiederti cosa hanno detto dopo. E ti assicuro che alla fine, quando sono saliti sul palcoscenico, cosa che accade quasi sempre alla fine di questo spettacolo, l'emozione di condividere quella cosa che ci riguardava, per me, di aver raccontato anche loro e di vedere che si riconoscevano in quel racconto, questa è la più bella complimento. La cosa più bella che hanno fatto in molti, ma ripeto, Andrea Gianni, Lucchetta, Cantagalli, hanno invitato i loro figli a vedere questo spettacolo dopo che l'hanno visto, il che significava che forse si riconoscevano e gli piaceva quel tipo di immagini. Con loro è un'emozione unica, è un po' magica, di persone ormai con i capelli bianchi che si guardano e dico: però abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme. Guarda, le vittorie sono tutt'altro che trascurabili, ma non sono l'unica chiave che si tiene unite. No, anche perché anche di questo discutevamo prima, no? Che cosa ha reso questa nazionale qualcosa di indimenticabile, di parte della nostra cultura, no? Perché non stiamo esagerando dicendo che ci sono delle nazionali o dei personaggi che hanno vinto di più. Che hanno vinto di più o che hanno vinto di meno, eppure sono diventati delle leggende, no? Ci sono delle nazionali che sono indimenticabili. Questa nazionale di pallavolo è stata indimenticabile proprio per questi motivi. Allora, ti aggiungo un'altra delle reazioni più comuni a fine spettacolo. Molti dicono: però peccato, perché vi meritavate di vincere l'oro olimpico. E invece no, secondo me... Sei d'accordo con me su questo? Come? Però guarda che un tifoso che dice vi meritavate è un nonsense, perché sì. Non è che uno deve vincere. Io credo che questa sia la chiave di lettura, questa sorta di imperfezione per avere mancato il torneo più importante, avere vinto abbastanza per essere considerati buoni giocatori, però questa imperfezione umana è come se si avesse legato ancora di più ai nostri tifosi, e a tanti anni di distanza è incredibile come questo legame sia rimasto ancora fortissimo, perché davvero quella squadra forse si è fatta riconoscere perché lo faceva con spontaneità, sì. Amici nel senso sportivo del termine, sì, molte volte abbiamo detto, non condividevamo tutto quanto, a volte si litigava anche molto, però grande rispetto professionale, e questo è quello che rimane nella memoria della gente. Bene, allora torniamo a parlarne tra un attimo, maledetta Olanda, perché anche quella ce la ricordiamo tutti, tra poco di nuovo qui, continuiamo a chiacchierare con Andrea Zorzi, aspettiamo anche un altro ospite. Convocati. La leggenda del pallavolista volante, il pallavolista volante è davanti a me, ma lo conoscete tutti, Andrea Zorzi. Stiamo parlando di Andrea Zorzi pallavolista, sì, perché è il centro di quest'opera teatrale, ma soprattutto di Andrea Zorzi che è diventato attore, posso dirlo? Sì, lo posso dire. Dire agli altri, io ancora fai un dire po' agli altri, ancora, vabbè, un po' dico. Ancora un po' mi vergogno, devo dire. Io lo dico, vabbè, d'altra parte. Cioè, è anche curioso notare come in quella nazionale, cioè il futuro dei giocatori di quella nazionale, insomma, si attaglia alle loro caratteristiche. Io non ti avrei mai visto su una panchina, mentre avrei visto vedo su una panchina Bernardi, vedo Gianni, eccetera, eccetera. Sì, tu mi hai conosciuto anche... Là non seduto, là non ti avrei visto. Lo credo anch'io, infatti ho provato a fare scelte diverse. Hai fatto dell'altro. Non credo che sarei riuscito a restare totalmente concentrato sull'allenamento, anche perché non so se sono capace di farlo. Questo è un tema di cui si è molte volte dibattuto. Grandi atleti che diventano grandi allenatori non è poi così scontato. Non è così scontato. Né così frequente. Per il resto questa esperienza, come dicevo, non è molto bella, mi permette di continuare a viaggiare e di recitare un ruolo completamente nuovo. Sì, parlavamo prima di un discorso molto interessante dell'imperfezione di quella nazionale, no, e ancora a monte di una nazionale, di una squadra che è entrata nella storia dello sport italiano, perché noi identifichiamo quella nazionale, la generazione di fenomeni, no? Perché quello fu l'epiteto di quella nazionale, no? A questo proposito, una cosa molto bella. A Piacenza, spettacolo fatto in onore anche di Vigor Bovolenta, sì, sapete, il nostro carissimo amico che è morto un anno e mezzo fa. Alla fine salgono sul palco tutti quanti i miei amici, compreso Velasco, e gli chiedono: allora, cosa ci racconta di questa nazionale di fenomeni? Interviene Lachi, dice: ma quali fenomeni? Noi siamo una nazionale di minatori, abbiamo lavorato come delle bestie per diventare forti. E Velasco fa eco: questi ragazzi hanno lavorato duramente come se fossero scarsi, pur essendo forti. Questo è il loro segreto. Ed è ciò che emerge anche dallo spettacolo. È vero il talento, certo ce n'era, non c'è dubbio. Ma è la fatica, il sacrificio, la pazienza che è il vero segreto anche di questa squadra e di ogni squadra che ha avuto grandi successi per cicli mediamente lunghi. Vincere una volta non è mai facile, non è mai solo per fortuna. Può accadere. Sì, ma non crei un'opera letteraria dal vincere una volta. Guarda, continuare a vincere con generazioni diverse vuol dire che dietro c'è qualcosa di speciale. Ed è quello che a questa nazionale è accaduta e che gli è valso i premi. Sì, poi tante volte si crea anche una chimica quasi magica. Poi dipende dal lavoro, dipende da quel reagente che è stato Velasco, che... anche questo discorso l'abbiamo fatto mille volte, no? Ha creato questo spirito settario dentro la nazionale, fondata sulla fatica, il lavoro, l'intensità, gli occhi della tigre, tutte queste cose. Io credo che in tutte le grandi squadre, e anche qui possiamo andare avanti, dal Milan degli olandesi alla nazionale di basket Oro Anant, ci sono delle squadre che sono entrate nell'immaginario collettivo. Allora, e non erano cose banali. A me capita di parlare spesso con Billy Costa Curta, di cui sono felice compagno di viaggio, e lui per esempio, rispetto alla sua grande rincorsa con il Milan, ha un'idea un po' diversa dalla mia. Per esempio percepisce il ruolo dell'allenatore un po' meno importante di quanto io pensi del ruolo che ha avuto Velasco. Forse perché si tratta anche di uno sport diverso, forse perché si può vincere in molti modi diversi. Non necessariamente l'allenatore deve avere un ruolo così importante. Io penso che Velasco abbia avuto una grande importanza. Certo, senza di noi anche lui non faceva nulla. Forse è vero viceversa, non c'è la controprova, però questo è un tema sempre molto affascinante. Sta di fatto che la chiave è: si può vincere in tanti modi diversi, non si potrà mai vincere in nessun caso se non c'è impegno, pazienza e sacrificio. Quindi occorre ridare importanza a questi messaggi. In un mondo in cui si parla spesso di sogni che arrivano velocemente se possibile, tornare a pensare che passione significa impegno e sacrificio quotidiano è un bel messaggio. Sì, come diceva Arrigo Sacchi, hoc pazienza e busdal, un'altra cosa, no? Che si può parafrasarla anche così, però... Il lavoro da solo non basta. No, è chiaro. Però... tanto parti da quello, su quello puoi intervenire, sul talento, sulla fortuna non puoi farci quasi nulla. Puoi impegnarti e puoi lavorare. Sì, però ti ripeto, io credo che esista una base quasi, beh, mistica è un parolone, però quasi magica nella formula chimica che trasforma una squadra vincente in una squadra indimenticabile. Ci credo. Cioè, la differenza è evidente. Allora, no? Anche questa è memoria recente, quindi per me molto emotiva. La moglie di Julio Velasco, la nuova compagna, dice spesso: quando ti vedo insieme con i tuoi ragazzi, c'è qualcosa di magico tra di voi. Che cosa sia questa magia non te lo so dire. A volte basta ritrovarsi tra un gruppo di grandi amici e qualcosa di speciale avviene. Non si può spiegare. Però c'è qualcosa di speciale. Noi facciamo fatica perché tendiamo a razionalizzare un po' tutto, a dire sì, cosa, come. Qualche volta c'è qualcosa di speciale. Nel bene o nel male. Non è solo amicizia, non è solo tempo passato insieme, non è solo affetto, non sono solo vittorie. C'è qualcosa di più. E in quella nazionale è presente in modo notevole. Poi Andrea, con il tempo si tende ad invecchiare, quindi a diventare anche più buoni e a tenere i ricordi più dolci, mentre quegli altri un po' più complessi si scivolano via. Ma però noi non si era credo un che voi, appunto, che litigava molto. Appunto, non poi credo si che... era amici, sì. Ma si litigava molto. più grande scazzo che hai avuto, possiamo dirlo? Viene rappresentato a teatro? No. No. No, c'è una battuta finale in cui si disse: ma noi in fondo si faceva quel che ci piaceva, ci veniva piuttosto bene, si litigava molto ma poi si era amici. No, lo scazzo più grande che ho avuto è con Andrea Anastasi, un giocatore speciale, di grandissima grinta, che ha fatto di questo suo atteggiamento anche aggressivo una grande dote. Siamo quasi arrivati alle mani in spogliatoio. Ed è l'unica volta in vita mia che ho quasi messo le mani addosso a mio compagno. Non l'abbiamo fatto, però ci è mancato poco poco. Sì, poi ovviamente questi ricordi li portate al tempo e avete continuato a vincere insieme. Assolutamente. Perché poi non c'è nessun problema. Ma guarda, non è che ti ritrascini dietro. Tu sei uno che non ama il buonismo, questo lo fai capire ad ogni occasione. Io credo che sia importante anche ricordarci che i grandi gruppi, non solo sportivi, ma in generale, non sono fatti necessariamente da amici. Ma certo. L'amicizia è qualcosa di diverso. Anche qui una frase importante: io per un amico faccio qualunque cosa, giusta o sbagliata che sia. Sì, per un mio giocatore, per un mio compagno, devo fare le cose giuste. Allora, significa che io posso avere con Lorenzo Bernardi, non ho molti gusti in comune. Lui gli piace fare alcune cose che a me non piacciono, però mai avrei fatto le vacanze con Lorenzo Bernardi, perché la pensavo in modo diverso. Ma è un compagno di squadra meraviglioso, meraviglioso, litigando con lui furiosamente molte volte di qua di là della rete, però davvero quando sei in campo sei lì a fare qualcos'altro, quello è più che sufficiente. Sì, certamente, anche perché non so, ci sono molti esempi. Michael Jordan entrava nello spogliatoio, non salutava nessuno, poi in campo dava un braccio per il suo compagno, poi in campo, pur di aiutare Scottie Pippen in un'occasione quando c'era Kukoc come avversario che doveva diventare una stella, insomma sono mille storie dello sport per cui grandi amici no, in campo però qualcosa di più. C'è solo una piccola distinzione: l'ambiente anglosassone a cui appartengono Michael Jordan, le storie americane sono fatte di grande pragmatismo. Sì. Quindi siamo qua per giocare insieme, te lo dico, non me ne frega nulla di te in quanto persona, se ci serviamo. In ambito latino come il nostro è necessario un po' più di partecipazione, un po' di simpatia è comunque utile perché permette di creare quel contesto nel quale giochiamo bene insieme. Non dobbiamo farci distrarre, perché poi c'è l'esempio negativo: le ragazzine che giocano a pallavolo, ma non solo, litigano per il fidanzato e la palleggiatrice non passa più la palla alla sua ex amica, e in campo questo non va bene. Sì. Quindi trovare l'equilibrio è molto importante. È umano, non diventi una squadra indimenticabile, però è del tutto umano. Io capisco, la mia solidarietà a tutte le ragazzine che si sentono defraudate e poi non passano la palla alla collega. Fanno bene, loro fanno bene, poi impareranno con il tempo. No, piuttosto un'altra curiosità: ma gli avversari come li rappresenti? Ma hai rappresentato quella volta che ho ricordato anche poco fa, pochi giorni fa, con Andrea Gianni, che è stato mio ospite in questo programma, Vinitaly eccetera. Ma Andrea Zorzi, quella volta che, insomma, pallavolo è vero, non c'è contatto fisico, non ci si mette le mani addosso, però c'è un agonismo infernale, terribile, sotto quella rete c'è un agonismo infernale. Drazzosi, quella volta che attraversò la rete, entrò nel campo cubano, se la ricordano tutti. Fisici strepitosi, saltatori sì, super dotati. Sì, sì, intanto questo volevi scacciargliela sul naso. Dai. È il racconto nello spettacolo. Sì, quella volta. Ah, sì, hai mentito fino a questo punto. Fisici strepitosi. Ma no, saltatori super dotati, è tutto verissimo. Sì, però volevi scacciargliela sul naso, questo dovevi dirlo. Non l'hai detto? Vieni a vederlo dopo domani lo spettacolo, vengo, così sicuro che vengo. Ti aspetto al Teatro Elfo. No, però. Allora, lì andava così: finali di World League, forum strapieno a Milano. Finale con Cuba, con cui c'era un conto aperto ormai da un sacco di tempo, ci odiavamo reciprocamente. E dopo l'ennesima murata che i cubani mi hanno rifilato, Lazzaro Beltrán mi urla in faccia con una bocca aperta gigantesca. Io perdo letteralmente la testa, alzo la rete e vado di là. I cubani immediatamente fanno gruppo e vedo sei bestioni che vengono verso di me. Dico: ma si mette piuttosto male, si mette qui. Forse è meglio che torno indietro. Mi giro, c'era il gardo a fianco a me a muro e non era più così vicino, si era allontanato un attimo il gardo. E non so come sia accaduto, io ho detto una parola, poi mi sono girato, sono tornato dalla mia parte del campo. Continua la partita, vinciamo noi la finale, io vengo premiato anche come miglior giocatore, felicissimo di questo. Il giorno dopo ricevo una lettera dal presidente della Federazione Internazionale, Ruben Acosta, che dice: caro Zor, complimenti, congratulazioni, but la pallavolo è lo sport del fair play, e se lei si permette di fare ancora un gesto così io la squalifico a vita. E io presi un foglio con Masciarelli: dear, but very dear President Acosta, mi scusi moltissimo, e non fui squalificato, ma rimase storica questa invasione di campo contro i cubani. Della quale non ti sei mai pentito? No. Dimmi di no. Grande. Lo sapevo. Per questo sei pentito, così amico. Pentito. No, ma dai, scusami. Cioè, in quei momenti lì, cioè, anche l'agonismo, il furore agonistico vuole la sua parte. Dai. Qualche volta adesso sono un po' contrario a questo regolamento del fair play, che non ci si può guardare sotto rete, che non ci si può parlare. un po' di sano e controllato. Sì. Ma cosa c'è di insano in un gesto agonistico? Cioè, io sono per, tu vabbè, lo sai, poi io esagero, sono per gli irregolari, quelli che sfidano tutto il mondo. Però se allo sport togli questa componente, allora la componente a teatro ci vengo, tutte le volte, però è un'altra cosa. Assolutamente d'accordo con te, ma infatti la grande magia dello sport è proprio questa: la possibilità di avere una risposta a una domanda. C'è uno che vince e l'altro che perde. Uh-huh. Il fatto che questa magia si rinnova tutte le volte, ad ogni partita. Qualche volta funziona benissimo, qualche volta un po' di meno, ma questa è la vera grande magia dello sport, cosa che non avviene in altri ambienti. Non hai la quotidianità per poterti rinnovare e aspettare la risposta. Vivi in un mondo pieno di grigio. E dall'altra parte della rete ci andiamo di nuovo, se succede un'altra volta nella vita. Andrea Zorzi, stai con me, ci fermiamo un attimo e poi continuiamo a parlare di te, di questo spettacolo e di altro ancora. Tutti convocati. Allora, sempre con Franco Piantrini, autore di questo programma, e Filippo Reggio in regia. Oggi stiamo facendo dell'altissima cultura, alla faccia di chi ci ritiene incapaci di questo. Con me Andrea Zorzi in versione attore e adesso c'è Giorgio Terruzzi in versione romanziere. Ciao Giorgio. Buongiorno. Andrea, posso invitare Giorgio Terruzzi a vedere la leggenda del pallavolista volante mercoledì? Mi fa molto piacere. Mercoledì 23 al teatro Elfo Puccini. Anche vicino a casa mia, vengo. Guarda, molto molto volentieri. Secondo me ti divertirai. Anche perché vedere Andrea Zorzi che fa l'attore, insomma, quantomeno per farsi due risate è imperdibile. Mannaggia, e poi fine, per spernacchiarlo dopo. Giorgio, scusa, Carlo, ti vengo a trovare alla fine. Sì. Ti vengo a trovare. Scappo e vediamo se devo uscire un pelo prima che ho un impegno. No, io volevo parlare invece con Giorgio Terruzzi. Abbiamo parlato di questo spettacolo teatrale, lo faremo ancora, di un libro che è appena uscito, tra l'altro, il 17 di aprile, quindi è proprio freschissimo, e che Giorgio Terruzzi ha scritto e che, insomma, non voglio dire prende spunto dall'anniversario che ci attende il 1 maggio relativo ad Ayrton Senna, prende spunto da qualcosa di diverso. Raccontalo tu, Giorgio. Ma insomma, è una storia strana, nel senso che loro mi avevano, l'editore che si chiama 66 and Second, mi aveva chiesto di scrivere un libro su Senna per l'anniversario, e ho detto di no. Poi è successa una cosa strana, che ho fatto un lungo sogno 3-4 giorni dopo, di quelli lì in HD che restano. Sono andato a riprendermi le cose, perché poi fu un weekend molto particolare, fu una persona che io tenevo d'occhio con molta attenzione. Mi sono commosso, mi sono venuto in mente tante cose. Mi è venuto in mente che in quel momento lì Ayrton Senna stava decidendo molte cose della sua vita. Quindi sono andato a stare, ho chiesto alla signora Tosoni dell'Hotel Castello di dove lui dormiva, dove stava l'ultima notte. Sono andato là, nella stanza. Io ho dormito lì e ho immaginato quest'uomo nell'ultima sua notte alle prese con il bilancio della sua vita. Mi sono preso questa libertà, però ho chiesto un po' di conforto, l'ho chiesto a Berger, Gerald Berger, soprattutto a Joseph Levener, che era il suo fisioterapista, le persone che sono molto vicine a lui. In effetti quell'uomo lì aveva a che fare in quelle ore lì con molti temi del suo vivere, spalancati per qualche verso dalla morte di Ronald Ratzenberger il sabato, che era la prima morte vista da Ayrton lì in pista dopo un incidente gravissimo a Barrichello il giorno prima. Quindi qualcosa che ha posto qualche domanda sul senso del fare quella vita lì. Ma poi aveva altre cose in ballo, aveva un rapporto, forse per la prima volta un rapporto adulto, con una donna che era molto mal vista dalla famiglia, osteggiata dalla famiglia, non è ancora adesso. Era riuscito a far partire la fondazione da pochi mesi, che significava, come dire, risolvere un nodo chiave della sua vita, cioè restituire qualcosa di importante rispetto a ciò che aveva avuto in dono, cioè il talento, cioè ricchezza della propria famiglia. Insomma, c'erano molti temi in ballo, e quindi questo è il libro, è il racconto di quest'uomo qui che insomma, si pone qualche domanda importante quella notte lì, che poi è stata la sua ultima, insomma. Però al netto dell'incidente. Poi c'è un capitolo che racconta la domenica, ovviamente, ma... sì. Ecco, però la notte al netto di tutto questo. Suite 200. Una curiosità, si parla spesso dei luoghi che tengono memoria di chi c'è passato. Ti è accaduto così quando hai dormito nella stanza di Ayrton Senna? Ma sì, più di ogni previsione, perché io sono stato da Paolo Liberani, che è quello della trattoria, che si doveva mangiato, e quest'uomo, che è un uomo... burbero, un uomo di quelli lì, insomma, che la trattoria è molto semplice, un posto molto semplice. E finita la cena, si è seduto all'improvviso si è commosso in modo molto marcato, come se fosse qualcosa che è accaduta poche ore prima. Io ho chiesto alla signora dell'hotel di farmi parlare con le persone che facevano la stanza, che stavano lì, no? E queste due signore che sono venute il pomeriggio parlavano di sto ragazzo come un figlio che era stato lì il giorno prima, con un candore, con un affetto. Parlavano dell'ordine di questo qui che certe volte addirittura tirava sul lenzuolo uscendo, no? Come si fa quando cerchi di mettere un'ora senza fare proprio il letto, ma insomma. Sì. E quindi in qualche modo... cioè, avevo tutto lì, poi avevo la memoria in qualche modo da tutto questo smossa, no? Per cui sì, è stata emotivamente una cosa molto forte, che poi quella stanza lì in qualche modo che non era cambiata, non è cambiata se non in qualche piccolo particolare, ha raccontato un sacco di cose. Il panorama dalla finestra è lo stesso, non ci sono state invasioni, come dire, cementifere. Sì, quindi sì, quel luogo lì, che pure è una stanza, cioè è una stanza d'albergo, non è che ha dentro nessuna reliquia, nessun niente, però insomma in qualche modo sì. Senti, ma come mai volevano tutti così bene a Senna? Ti ricordi quando correva dicevano: ah, questo è antipatico, questo è scostante, questo è l'avversario, perché era l'avversario, era quello imbattibile. E invece scopri che, cioè, tutti sono commossi adesso, in questi giorni, nel ricordarlo. Vabbè, ovviamente quando leggiano questo libro, io credo che insomma avranno bisogno di sedersi e di pensare per un po', però ti accorgi che tutti vogliono bene ad Ayrton Senna? Ma guarda, secondo me perché era in qualche modo una persona, cioè era una persona molto esposta, era una persona che ha vissuto male, cioè una persona molto disturbata, però anche capace di dire o di fare delle cose clamorose, perché questo, lui era un po' un monaco consegnato a una missione, con una religiosità molto intensa, ma comunicata. Cioè, quando uno dice: ho visto il giorno che vince il mondiale, in una conferenza stampa gremita, e dice: io oggi, in fondo al rettilineo, ho visto Dio a figura intera che si alzava e andava in cielo, 80 su 100 ti danno del matto. Cioè, questo qui è un matto, però lo diceva e ci credeva. Poi lo beccavi tre ore dopo da solo e te lo ripeteva guardandoti in faccia, come dire: beh, è così. Aggiungo che chi sono io, chi siamo noi per dire non è vero, è una balla, non so, non la sentirei, no? Ma è straordinario che uno lo dica. Quando uno fa un incidente con Prost a 240, vanno fuori in due, e dice: no, beh, l'ho fatto apposta, perché era un atto di giustizia rispetto all'anno prima, quando potrebbe dire: è stato un incidente di corsa, nessuna... Beh, insomma, resta, cioè è una persona che si è esposta molto, e poi che è morta così, perché non dimentichiamo questa cosa qua, cioè è stata una cosa molto violenta in un weekend che è stato un capriccio di Dio. Sì. Perché, questo, no, indubbiamente. Siamo oltre ogni dimensione, credo succederà, spero, mai più una cosa del genere. Ma è morto lì in pista il capo. capo, è come quei capi degli Apache che non muoiono, cioè ci sono, sparano a tutti ma lui non muore, no? Cioè, è lui quello lì che cavalca con le piume, dopo quando si ritrovano per fare l'altra è lì. No, tu dici lui è immortale, cioè lui con lui, no, lui, no, lui, no, lui non può, no, non può succedere. Lui no, invece morto così, con quelle immagini dell'elicottero che sarà stata mezz'ora, con questo qui che non si muoveva, insomma, in qualche modo. Giorgio, stai descrivendo un mondo che sembra lontano anni luce. Cosa ci dice adesso questo confronto con la Formula 1 moderna? Ma guarda, ci sono un po' di cose, perché intanto Senna era un mio coetaneo, cioè Senna aveva del 60, sono del 58, quindi in qualche modo erano un gruppo di uomini, di ragazzi, allora anche noi eravamo ragazzi, però con i quali avevi più cose in mezzo, cioè anche rispetto al mondo, alla tua esperienza di vita. Non avevano una struttura così articolata, composta da manager, uffici stampa, filtri come c'è adesso, avevano più capacità e meno timore di confrontarsi. Io non voglio fare troppo il nostalgico, però insomma effettivamente era un rapporto più diretto allora. Adesso è impossibile avere contatti con i piloti se non per vie ufficiali o canoniche. Poi non ne troverai mai uno che ti dice no, quello l'ho fatto apposta. Ma non dicono neanche. Non so, 2 anni fa eravamo in Bahrain, cioè dove c'era una sorta di guerra civile in atto, ti dicono, io prima della conferenza stampa ti dicono non chiedetemi di quella roba lì, poi parlarne, no? Cioè nel fine settimana che c'è un Gran Premio e eleggono un nuovo Papa, non è che tu gli chiedi cosa ha fatto ieri sera con la sua fidanzata, però ti dico non parliamo d'altro che non delle sospensioni. Sì, ti viene quasi il dubbio che non abbiano niente da dire, eh? Il dubbio più drammatico che può venire in questi casi è che davvero non abbiano niente da dire, che davvero vivano in una scatola tutta d'oro, li tirano fuori dalla scatola, li mettono su una macchina e poi li rimettono via, quindi E poi hanno questa modalità che c'è adesso del tweet o del Facebook, per cui loro dicono io comunico direttamente se devo dire una cosa, però è sempre unidirezionale, no? Cioè loro comunicano quello che vogliono, tu non è che puoi andare a dire no, ma scusa. E certo, non c'è contraddittorio, sennò è troppo facile, sennò magari finisce che qualcuno ti mette in difficoltà, sennò magari finisce che qualcuno ti tira fuori una parola diversa da quelle che normalmente usi, sennò e allora poi diventa un problema. Ci dobbiamo fermare un attimo ancora per una pausa sul traffico, per il traffico, poi torniamo con Andrea Zorzi, Giorgio Terruzzi e continuiamo a chiacchierare. Convocati. Allora, spero non vi siate persi le puntate precedenti, cioè i racconti che stiamo facendo, altrimenti vi consiglio di scaricarveli, di sentirveli, perché stiamo parlando di un'opera teatrale, Leggenda del Parabolista Volante, con Andrea Zorzi, attore, e di un'opera letteraria, Sì 200, L'ultima notte di Ayrton Senna, con Giorgio Terruzzi, autore di questo lavoro. Al quale io voglio, tornando a Senna, voglio chiedere lumi su un'affermazione. Cosa vuol dire che Senna ha vissuto male? Ha vissuto male perché era questo è il problema di dover corrispondere o restituire una perfezione perenne rispetto ai doni del destino, che il destino aveva riservato, è stata un'ossessione. Cioè, lui era uno che lavorava, ecco, in questo senso qui è anche un buon esempio, no, per certi versi. Cioè, lui è uno che non si è mai accontentato del talento, che pure produceva frutti evidenti. Era un lavoratore indefesso, da fino alle 11, era uno che stava solo. È stato solo tutta la vita perché era dedicato al suo lavoro per scelta, quindi sì, era uno che era talmente preso da questo bisogno di qualità, di alta qualità, per cui se un giornalista per esempio si distraeva, faceva una domanda già fatta, lui gli faceva un mazzo così davanti a tutti, come dire ma come tu cosa sei qui a fare, non sei concentrato sempre? Sì, perché lui era concentrato sempre. Era uno che dava... In questo ritorno troviamo qualcosa di quello che tu dicevi prima a proposito della tua nazionale, quella di Velasco, eccetera, cioè quella quasi cattiveria, quella determinazione quasi cattiva nel volere un risultato. Feroce, determinata. Pensa che ci sono alcune delle storie più belle dello sport, è come se avessero un filo rosso ed è quella che qualche volta i campioni sono campioni nonostante il talento. Nonostante, vuol dire che se uno si affida al talento 99 volte su 100 non arriva da nessuna parte. I grandi campioni hanno avuto talento, ma hanno avuto soprattutto questa grande capacità di alimentarlo, di stare attenti, di usarlo fino in fondo. Ci sono un sacco di ragazzi che si perdono per strada avendo talenti incredibili. Parla con gli allenatori e ti diranno: guarda, ne ho visti centinaia, migliaia di gente che poteva fare di tutto, si sono persi per strada. Quelli che arrivano in fondo è perché hanno anche un po' di talento, ma soprattutto questa determinazione a sfruttarlo fino in fondo. Sì, questa ferocia totale, questa totale dedizione a quello che stanno maniacale. Facendo. Quasi maniacale, anche perché dici, ma potrebbe vincere ugualmente, però probabilmente, senza arrivare a quei livelli di estremismo, però probabilmente è proprio questa componente, e anche lì, su questo voglio sentire Giorgio Terruzzi, che distingue il grande sportivo, cioè quello che ha vinto molto, da quello che diventa leggenda, perché in questo caso la leggenda di Senna si è quasi scritta da solo in maniera tragica, no? Però ci sono, e ne parlavamo prima con Andrea Zorzi, molte squadre o molti sportivi che non sono stati semplicemente dei personaggi che hanno vinto molto, ma sono diventate delle leggende popolari. Senna è tra questi, la nazionale di Velasco è tra questi, Tomba è tra questi, ma li conosci bene anche tu, Giorgio, professore, è inutile che te li stia a ricordare io. È questo che distingue, insomma, quello che ha vinto molto da quello che diventa qualcosa di più? Sì, la domanda è per me? Sì. Sì, no, ma secondo me è un problema proprio di, ma anche nella vita, secondo me, no? Nel dire, bene, prendere spunto dal vantaggio che ti dà un'intelligenza, una perizia, una dote, per cominciare da lì. Questa cosa qua è testa applicata alla volontà più che al talento, perché il talento te lo tiene e ti dà poi quel colpo d'ala lì, ma il resto è lavoro. Io ho sempre visto questa roba qua, io non ho mai visto gente dotata di talento e basta. In aggiunta, poi, in qualche caso hai due colpi di grazia ulteriori, che sono per esempio la capacità di parlare, di comunicare, la capacità di commuoverti, di piangere, di dire una cosa inaspettata o una cosa molto forte. Cioè, per esempio, Muhammad Ali, che secondo me resta un fuori media assoluto, aveva talento, aveva allenamento, aveva, in più aveva una rabbia e una capacità di manifestarla, di dirla, un senso dell'umorismo, in quel caso lì un cinismo. Questo qui aveva un'ombra, Senna aveva un'ombra così rilevante, per cui a un certo momento la metteva in piazza anche quella, ed era un colpo d'ala in più rispetto a tutto il resto. Allora tu dici, ma questo qui non me lo dimentico. Questo lo dico indipendentemente dalla morte in pista. E quasi aggiungo, indipendentemente dai risultati clamorosi che ha ottenuto in campo sportivo, perché prescinde da questo. Quelli lì però danno il peso specifico del resto. Perché, certo, questo è evidente. Perché in più non si accontenta di vincere, che già non si potrebbe, invece di metterla giù dura, ti dice: l'altro giorno sono stato in silenzio 4 ore perché ho pregato, ostia, no? Non te lo aspetti, è un di più, no? Ed è vero, non è che te lo dice perché vuol fare il figo, te lo dice perché fa così, no? Cioè, poi Senna nello specifico, per esempio, aveva un fisico non ecco, quando dicevi prima perché ha vissuto male, perché, come diceva Nuno Cobra, il suo preparatore mago atletico, lui era uno che in qualche modo doveva passare attraverso una sofferenza per avere un godimento, una lunga sofferenza per avere un piccolo godimento. Questa cosa qui è stata la sua costante della vita, della vita, non della carriera, no? E questa cosa qua era evidente, no? Sì, in parte quello che contraddistingue, appunto, è una regola, è un contraddistinto, non trascurabile. passare attraverso la sofferenza, la grande sofferenza per avere un piccolo godimento. Forse le due cose vanno tenute in considerazione, perché se vuoi solo godere senza soffrire, siamo destinati, come capita troppo spesso, a cose superficiali, sì, un po' leggere. No, ma che poi ti immagini, voglio dire, nell'immaginario collettivo, soprattutto quello contemporaneo, il così, giocatore o il pilota che ha tutto quello che vuole. E uno dice, vabbè, se si gode la vita, se la spassa, ha i soldi, ha la popolarità, la notorietà, ha il mondo in mano, uno dice, ma chi cavolo te lo fa fare di andarti a cercare il patibolo, no? Ma, per esempio questa, lo cito rapidamente, perché sì, questa accusa di omosessualità che gli è stata data da Piquet, sì, ma era basata sul fatto che lui ai Gran Premi non portava le ragazze, non andava con le ragazze, lui andava a lavorare. Per lui, per una testa come la sua, questo abbinare a un weekend di Gran Premio le donne, le cose, non stava nel mondo, lui non era lì per quello, no? Questa roba qua era talmente anomala in quel mondo lì, dove devo dire lui ha beccato un'epoca di broccolatori eccezionali, no? Sì. No, però è venuta fuori addirittura quel pettegolezzo con alcuni che dicevano, beh sì, effettivamente è sempre solo, è sempre lì che lavora, è sempre, ma stava sulle palle agli altri, insomma, sì, anche perché stava sulle palle agli altri, perché lui poi in pista era un animale di una ferocia assoluta, perché poi dopo tutto sto lavoro, poi dopo doveva finalizzarlo lì, non ce n'erano di santi, lui era una bestia, sì, una bestia. Cioè, era uno che si buttava fuori l'aria, aveva due meccanici sulle due cinture di sicurezza che spingevano mentre lui buttava fuori tutta l'aria per avere il massimo della sensibilità nel filo della pole position. Era uno che alle 11 di sera diceva, questo motore perde 500 giri alla curva 7, i giapponesi della Honda che lo guardavano le prime due o tre volte come un matto, poi andava a vedere la telemetria e perdeva 500 giri, non li senti se non hai una sensibilità allenata, allertata, cioè è un martello pneumatico. Sì. No, questo racconto ricordo un po', mi fa venire per associazione di immagini in mente anche, vabbè, Rush l'abbiamo visto tutti, una storia recente, ovviamente dice molto di romanzesco, eccetera, eccetera, però è facile associare questa immagine che tu dai con le parole all'immagine che abbiamo visto di Niki Lauda, ovviamente recitato, però qualcosa di questo c'era in Lauda. Sì, Lauda era un altro così, Lauda era un altro martello, lo è ancora adesso si è un po' ammorbidito, ma era un altro così, no, è uno. A proposito di Sinés, fa ridere, ma gli ho chiesto recentemente se quando hai visto il film, ricordando quei tempi lì dell'incidente, se lui pensava più a sopravvivere o a tornare a guidare, e lui mi ha detto, no, ma ero già vivente, pensavo a guidare. Che nella logica di è una fotografia, era già vivente, quindi lui pensava già a come fare, a come recuperare. Devo dire che da pallavolista abituato avere la rete in mezzo, quindi l'incolumità fisica garantita in, sì, ogni caso, quando parlo con gente che ha fatto automobilismo o motociclismo, l'idea che la morte sia lì davanti a te è un tema sul quale davvero... Sì, no, questi sono matti, questi sono matti, cioè c'è anche la famosa frase di Hans, sempre cinematografica, più vai vicino alla morte più ti senti vivo, cioè è un flirt continuo comunque con questo, perché... Sì, però Giorgio diceva gli incidenti di quella settimana, mi viene in mente Kevin Schwantz, in questo giorno ho visto alcune sue, certo, storie, quando vedi degli amici che si fanno molto male o che muoiono, la morte non è più quel modo per sentirti vivo, sì, fa anche paura. Non so, ma per loro sì, perché loro sono mica normali, è inutile far finta che siano persone normali. Giorgio, ti ringrazio molto. Ringrazio voi, ringrazio tanto voi. E allora ci vediamo tutti a vedere Andrea Zorzi a teatro mercoledì alle 21. Alle 21, pomodoro li porto io. Poi te le immagini insalate, i pomodori, vedrai. grazie a Giorgio Terruzzi, grazie ad Andrea Zorzi e grazie di averci fatto compagnia. Abbiamo dimostrato di saper fare della cultura di livello molto elevato. Poi ovviamente da domani torna a Pardo e torna tutto il circo. Grazie a Franco Piantanida, autore di questo programma, Filippo Oreggi in regia. Ciao a tutti.